noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attacca Gulam, accelera, sopra due avversari, Gulam anche con il destro, l'ha fatto bellissimo, Gulam, Napoli di nuovo in vantaggio, 3-2. Higuain, Dybala, 4-0 Juve, e alla fine segna sempre lui. Straordinario, Marquez un'altra volta in casa sua, Marquez c'è e vince davanti a Daniel Pedrosa, alla Ducati di Jorge Lorenzo, poi Maverick Vignales quarto, e applausi giustamente anche per Valentino Rossi che riesce a portare se stesso e la sua moto sul traguardo in quinta posizione. Io continuo, se sentite, a battere le mani. Molto morbido Bonucci, lotta Zapata anche, poi la regala a Dubai. L'angolo, colpo di testa in rete d'Ambrosio, Inter in vantaggio. Peter Sagan, ora lo possiamo dire, definitivamente consacrato nella storia del ciclismo, non terzo mondiale consecutivo. E proprio da qui partiamo, amici, apriamo così la settimana. Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Maurizio Crosetti oggi sulla prima pagina di Sport di Repubblica lo scrive: i fenomeni che abitano il presente, le foto di Sagan e di Valentino Rossi una accanto all'altra. Abbiamo visto ieri, vi invito naturalmente, 800240024, poi verrà il calcio, ma abbiamo visto ieri qualcosa che non si era mai visto nella storia del ciclismo. Cioè un corridore che vince tre mondiali consecutivi. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Il Re Leone, Mario Cipollini, che è stato senza alcuna discussione più forte velocista del mondo. Ciao Mario. Ciao, buongiorno Carlo. Ciao, allora io parto da te Mario. Sagan che cos'è? Un fenomeno 2.0, generazione, un fenomeno che non si è mai visto? Ma Sagan è qualcosa di straordinario, perfettamente adatto per questo ciclismo, definiamolo moderno. E appunto l'analisi che tu hai fatto, che lo consacra nell'Olimpo del ciclismo, credo che Sagan non avesse bisogno di vincere questo mondiale per mostrarlo, per farci sapere questo. Però la mia osservazione vorrebbe essere diversa, nel senso che straordinario Sagan, e su questo nessun dubbio e nessuno che possa dire niente. Ma mi chiedo una cosa: in questi ultimi 15 anni quanto sia cambiato il ciclismo? E provo a farti un paragone. Io sono arrivato a correre il mondiale di Zolder, che era considerato il favorito. Sì. I miei avversari erano Eric Zabel e McEwen. Cioè, la Germania e l'Australia, due grandissime squadre, quel giorno lì non hanno mosso una foglia per far sì che noi arrivassimo in volata, per cui la responsabilità è stata tutto il giorno della nazionale italiana. Da quando il ciclismo lo consideriamo tale, se tu non hai una nazionale non riesci a essere là davanti per giocarti il mondiale. Sagan da solo, straordinario, ne vince tre. E allora mi chiedo, indubbio che Sagan sia un campione fuori classe, ma tutti gli altri? Dove sono? Tutti gli allenatori, tutti i direttori sportivi, cosa hanno in comune in questo momento? Perché si permette a Sagan di arrivare in volata in una corsa come quella di ieri di 274 chilometri quando si può inventare qualsiasi cosa? Mario, giusto per essere chiari, questa è una critica alla nazionale italiana? Ma non è soltanto alla nazionale italiana, è un'osservazione che muove naturalmente delle definiamole critiche, ma la mia non è una critica. Mi piacerebbe potermi confrontare un po' anche ad esempio con Cassani. Mi chiedo, quando tu a 60 km dall'arrivo hai un gruppetto con 6-7 corridori in fuga e hai dei marchi, la tua difesa è dei marchi in quel momento, ma è un alibi politico per dire che la nazionale italiana è presente, o tu oggettivamente punti su De Marchi in quel momento lì, perché allora non capisco più niente di ciclismo. Non credo perché proprio. Mi dico, se per te va bene De Marchi, senza nulla togliere a De Marchi, ma lui lì è a fare un tipo di lavoro, non è la garanzia di risultato. Allora mi dico, hai degli atleti forti, abbiamo una bella nazionale, perché non la sfruttiamo meglio? È normale che sul cambio di ritmo finale posso perderne un sacco per strada, e sono sicuro che me ne possono rimanere due, sì. Trentin e Moscon, sì. Con il punto interrogativo di Colbrelli, no? Sì. Allora, perché non le sfrutto diversamente questi atleti, senza far sì che me li facciano fuori agli ultimi due giri, senza nemmeno averli potuti sfruttare? È come avere un forte centrocampo che non lo faccio lavorare. Sì, sei chiarissimo. Pier, cosa ne pensi? Stagi, cosa ne pensi? Beh, caro Mario ha ragione. Devo dire che si sta un po' troppo focalizzando, secondo me, sulla nazionale italiana, che in ogni caso si è commesso degli errori, l'ha commessi dopo nazionali molto più attrezzate e molto più forti, come ad esempio quella belga. Io dico, se Cassani fosse stato sull'ammiraglia del Belgio, cosa diremmo oggi? Se avesse avuto invece che Matteo Trentin, con tutto il rispetto, e Gianni Moscon, avesse avuto Greg Van Avermaet, campione olimpico, e Philippe Gilbert, ex campione del mondo, cosa staremmo raccontando? Se avesse avuto la nazionale olandese, se avesse avuto la nazionale francese. Ieri il problema, ha ragione Mario, ecco cosa dice, mi parla in senso generale, dice, ma i tecnici, i preparatori, dove sono? Che corsa hanno visto? E questo è il domandone. Ieri hanno corso tutti, volendo anche l'Italia, ma l'Italia per una volta ha cercato di fare il contropiede. Cioè, sfruttare, dire vabbè, vediamo un po' come va, e noi cerchiamo. Giocare di rimessa. Perché alla fine cosa avremmo ottenuto? Saremmo più contenti oggi, anzi io arrivo a dirvi una cosa, saremmo più contenti oggi parlare di un quarto posto con un campione del mondo diverso da Sagan. Secondo me sarebbe stato una beffa, meglio perdere del più forte in assoluto a casa mia. Il problema è che noi ieri siamo stati lì a vedere un campionato mondiale che è stato noiosissimo per colpa di altri. L'ho portato in carrozza, come dice Mario, sì. Peter Sagan, che ci ha fatto proprio marameo a 500 metri dal traguardo, e ha detto, ragazzi, io adesso devo andare. Grazie a tutti. Mario? Sì. Che pensi? Credo che siamo tutti e due sulla stessa linea, no? Con Pierbe, vediamo lo stesso ciclismo, è un ciclismo che tra virgolette ci sta annoiando un po', prendiamo il Tour de France e perdiamo l'ultima vuelta, la Sky davanti che detta il ritmo, i gregari di Froome sono forti quanto gli avversari più importanti, per cui i gregari di Froome tengono testa agli attaccanti, vedi Nibali, vedi Bardet, vedi gli altri, poi naturalmente Froome negli ultimi tre minuti di corsa, cioè l'ultimo chilometro e mezzo, sarà allenato per far quello, nell'ultimo chilometro e mezzo di salita fa la differenza, e c'è un piattume che non ci porta a vedere qualcosa di straordinario. Voglio dire, lo stesso Armstrong aveva due nazionali come la Telecom e come la ONS a contrastare le vittorie dell'americano, lo stesso Indurain, che ha vinto una valanga di tour, anche lui però aveva dei corridori importanti a cercare di contrastarlo. Ora il dominio è nelle corse a tappe di Froome, della Sky, e nelle corse in linea di Sagan, che ogni tanto si diverte anche a buttarle via, perché sinceramente stavo analizzando anche l'approccio alla corsa. Io Sagan lo vedo un attimo, un po', se provo a fare un paragone, con Alberto Tomba, cioè quel talento e quella capacità di essere superiore a tutti gli altri che lo rende quasi incosciente. Certo. Ok, allora Sagan che ti parte il giorno prima, non so da dove, penso da Principato di Monaco, e va a correre il mondiale a Bergen il giorno prima, così già il fatto di cambiare aria, un posto completamente diverso, da Monaco sul mare a Bergen nel nord, ok, uno normale ci va una settimana prima, uno che punta al campionato del mondo, perché vuole acclimatarsi al sistema, vuole vedere le strade, studia le curve. No, lui arriva lì il giorno prima come giocare una partita briscola, sì, no? Sì, allora, dice hai provato il percorso, ma no, ma che bisogno ne avevo, tanto devo farlo talmente tante volte che faccio allora, un tempo a impararlo. Mario, la stessa cosa che avveniva ad Alberto, probabilmente, che si trovava al cancelletto di partenza della seconda manche di un'Olimpiadi, di un campionato del mondo, e la viveva con l'incoscienza quasi infantile, mentre i suoi, Zurbriggen piuttosto che Girardelli, avevano la maturità di dire cavolo, mi sta giocando un'Olimpiade, e si bloccavano. Ok? Mm-hmm. Questo è un mio personalissimo, spero non errato, paragone, però fa capire che Sagan lo vive in un modo di talmente superiorità, sì, perché sì, la sì, superiorità gli è data da una garanzia che gli avversari non sanno nemmeno rendergli la vita difficile. Certo, ora certo, io mi dico una cosa: noi purtroppo non abbiamo visto gli ultimi 2,5 chilometri di corsa, che sono, erano il punto cruciale. Chi avrà chiuso quel buco su Alaphilippe? E poi mi chiedo, sempre una piccola nota, Moscon è sicuramente uno dei grandi, e questo fortunatamente ci dà uno spiraglio di speranza, e è fortissimo. Ma perché gli abbiamo fatto fare la cronometro individuale? Passava la cronometro a squadre la domenica e tienitelo lì per tue energie, certo, perché la cronometro individuale sai che non la vinci, lascia lì il tempo di recuperare, perché ieri si è vista una nota che lui ha fatto un'accelerazione allucinante, veramente incredibile, che ha lasciato sui pedali Gilbert e è andato a riprendere Alaphilippe. Lui quel serbatoio di glicogeno che aveva nelle gambe l'ha bruciato con quella sparata lì. Se il mercoledì o il giovedì si fosse risparmiato, avesse fatto una settimana di preparazione per essere a posto per lì, probabilmente Alaphilippe non l'avrebbe staccato e forse loro due c'era una possibilità che arrivassero. Ora mi chiedo, chi è che ha chiuso il buco per andare a prendere Alaphilippe? Mi sto dicendo, non è che siamo stati per caso noi italiani con Bettiol. In quel caso personalmente avremmo commesso un errore. Perfetto, a mio avviso. Grazie Mario, grazie per Augusto Stagi, abbiamo fatto parlare a Re Leone. Abbiamo fatto parlare a Re Leone, che ne ha dette abbastanza. 800240024, traffico, e poi andiamo sul calcio. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. Quello che oggi non ci è piaciuto è l'atteggiamento, perché l'atteggiamento è una cosa che è indipendente da questo, che non può avere degli alibi alle spalle e che deve essere cambiato rapidamente. Queste non sono sconfitte che dobbiamo considerare come routine. Il Milan quest'anno non deve abituarsi a perdere, non deve perdere 2 partite su 6 in campionato con avversari che sulla carta sono, come oggi, più deboli di noi. Quindi questo è un aspetto molto importante di cui tutti in società, me per primo, dobbiamo tenere conto. Giampaolo è stato bravissimo, ha impostato una partita dove ci ha imbrigliato, ci ha impedito di giocare, non ci ha quasi fatto uscire dalla nostra metà campo per 60-70 minuti. Sicuramente a loro vanno fatti i complimenti, ma il Milan è più forte della Sampdoria e deve approcciare queste partite con uno spirito diverso. Questo, l'avrete capito, era Fassone che ieri ha picchiato duro, come ha fatto prima Cipollini sulla nostra nazionale di ciclismo. Ieri Fassone ha picchiato duro sul suo Milan, ma anche giustamente, dopo i 2 schiaffi presi dalla Sampdoria. Pierluigi Pardo, ciao. Pierluigi Pardo cascato. Franco Ordine, buongiorno. Eccomi qui. Ciao, Giuccio. A stretto giro di posta. È tornato Pardo? Sì. Eccolo. Mi sembra che questa sia la notizia del giorno, no? Il Milan che cade, Fassone che picchia duro e molte certezze che vengono ad incrinarsi. Secondo me è tutto un po' eccessivo, nel senso che se ti viene in mente di cambiare allenatore quando non è ancora ottobre, dopo quello che hai fatto, dopo la campagna acquisti che hai fatto, dopo le tante novità, forse c'è qualcosa che non va. Questa è la mia considerazione, che condivido con Pierluigi e con Ciccio Ordine. Pier? Sì, no, c'è qualcosa che non va sicuramente, però sinceramente sapevamo dall'inizio, e lo dicevamo, che questa era una stagione potenzialmente molto gloriosa, ma anche molto pericolosa per Montella. Cioè, è chiaro che quando tu fai un investimento di quel tipo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, hai metti inevitabilmente l'allenatore di fronte a un certo tipo di pressione, quindi non ci vedo francamente niente di così clamoroso. Poi io non cambierei Montella, aspetterei sicuramente, gli darei tempo. Oggi, se fossi un dirigente del Milan, gli darei forza, perché credo che sia la cosa giusta da fare, altrimenti non aveva senso, certo, confermarlo, certo, però insomma che Montella sia sotto pressione, insomma, siamo uomini di mondo, ci sta, non soltanto perché il Milan ha perso queste due partite con Lazio e Samp, ma per come le ha perse. Certo, sono d'accordo, Franco Ordine, però criticare Montella, che per la prima volta peraltro si trova a gestire una rosa così ampia, forse anche lui deve prendere le misure, per la prima volta si trova a dover costruire ex novo una squadra, forse è troppo in questo momento mettergli la croce sulle spalle? No, allora, come al solito in questi casi bisogna avere un po' di misura. Siccome era sbagliato nei mesi passati da sentire un po' di propaganda che il Milan concorreva già per lo scudetto, eccetera, che doveva già partecipare ai sorteggi di Champions, così oggi secondo me è completamente fuori luogo pensare e immaginare che la società debba sostituire Montella. È evidente che lui è sotto la pressione, è evidente che lui il primo giorno io gli ho fatto la domanda: allora qui non è che hai voluto la bicicletta e devi pedalare, qui ti hanno messo a disposizione una macchina, loro sostengono che è di Formula 1, io personalmente sostengo che non è proprio di Formula 1, devi girare come le Mercedes se vuoi diventare pilota da Formula 1. E quindi è evidente che lui ci deve stare, come dicono a Roma, sì. E quindi deve prendere gli schiaffi, deve prendere il vento in faccia, deve prendersi le critiche. Ora, poi, secondo me, le colpe vanno equamente divise. Una parte riguardano l'allenatore, una parte, secondo me, riguardano la costruzione della squadra, che è stata fatta, ma non con un livello tale da poter pretendere immediatamente il risultato massimo. È chiaro, noi diciamo il Milan, come abbiamo sempre sostenuto io e Pardo, è in corsa per terzo quarto posto insieme all'Inter. A proposito di Inter, terzo quarto posto mi sembrava anche già, come dire, tanta roba, ma come abbiamo anche questo abbiamo detto, ha giocato un all-in il Milan con questa campagna acquisti. C'è il tuo dirimpettaio favorito, Ordine, Fabrizio Biasin, buongiorno. Buongiorno a voi. Un grande classico. Tiki-taka in purezza, praticamente. Tiki-taka in purezza. Melissa e poi abbiamo tutti. No, c'è l'altra faccia della medaglia che è l'Inter. Io sono, non sono colpevolista nei confronti di questa Inter. Non sono ipercritico nei confronti di questa Inter, perché basta leggere la classifica. Se poi vinci al 89esimo con il Genoa, con una zuccata di D'Ambrosio, più o meno va bene così. Poi tu mi dirai, Franco Ordine mi ha detto, è un Inter che manca di creatività. Questo è vero, però lo scopriremo vivendo. Fabrizio? Ma manca di tante cose quest'Inter, è vero, non c'è il gioco, c'è tanta fortuna, c'è un po' anche di improvvisazione. Però io sinceramente non capisco tutto questo clamore che c'è attorno alla squadra di Spalletti, che viene fischiata nei singoli, perché ieri Candreva esce, viene fischiato, Albert alla seconda presenza viene già additato come il giocatore poco utile, la squadra non ha gioco, è brutta. Se arrivasse il famoso Marziano da lontanissimo e ascoltasse tutte queste cose, probabilmente penserebbe all'Inter come la squadra penultima in classifica. In realtà, per tutta una serie di circostanze, è al terzo posto, a due punti dalla vetta. Sinceramente, prima di fare il protesto e di chiamare i cavalieri dell'Apocalisse, io aspetterei. Hai vinto anche a Roma. Signor Tiki-taka Pardo, fai tu l'ultimo giro con Ordine Biasin, va. No, io faccio il giro su, volevo fare un Roma contro Milano, cioè volevo capire voi due che in qualche modo, insomma, Ordine per lavoro, Biasin per lavoro e per fede, rappresentate Milan e Inter, come vedete la gerarchia del campionato, partendo dal presupposto che io e Napoli sembrano in questo momento avanti a tutte. Allora, diciamo io vedo... Vai Franco. Allora, io la vedo così, la Roma, che pure ha cambiato allenatore, che pure ha cambiato mezza squadra, anzi ha dovuto molto vendere per poi acquistare, a un certo punto secondo me presa dal panico di perdere una delle quattro piazze, ha sparato quella cifra enorme, record assoluto del proprio mercato per prendere Schick, secondo me arriva davanti alle milanesi, però naturalmente molto dipenderà anche dal destino della Champions, perché come ha dimostrato l'anno scorso Di Francesco, la sua è una squadra che per poter vincere deve rendere al meglio e soprattutto deve correre molto, deve correre tanto e deve sacrificarsi tanto. La Lazio è obiettivamente una grande sorpresa ed è dinanzi alla quale bisogna togliersi il cappello e anche le calosce ai piedi, perché si pensava che, avendo venduto Biglia, avendo perso Keita, potesse in qualche modo accusare la differenza e l'assenza, e invece mi sembra che grazie a un signor allenatore, oltre che a qualche giocatore scelto qua e là da dare, che non viene assolutamente mai considerato nella credibilità complessiva del calcio italiano, sta facendo le cose come si deve, ed è quello che in qualche modo si pretende alla luce del terzo mese di lavoro da parte di Montella. Per quel che riguarda l'Inter, al di là dei pali presi dalla Roma nella famosa partita dell'Olimpico, pali per i quali adesso vi racconto una cosa, è specializzato il nostro amico Biasin, allora vi posso dire che in questo momento c'ha molta fortuna, come ha detto ieri Billy Costacurta, ha un culo spacciato, però sì, dietro queste cose, quando sono ripetuti questi episodi, non c'è sempre la casualità, ma ci sono sempre invece da acuti osservatori alcune caratteristiche, alcune qualità, alcune peculiarità che fanno parte del DNA di questa squadra. Sentiamo Biasin, certo. Sentiamo Biasin, che siamo in zona borsa. Biasin, dica. Guarda, c'è un problema, definiamolo così, romano-milanese di fine settembre, perché prima dell'inizio del campionato non ci immaginavamo probabilmente una Juventus ancora a questi livelli e un Napoli a questi livelli. Cioè ci sono due squadre che tendenzialmente scappano e allora rimangono due posti per forse quattro squadre, le due di Roma e le due di Milano, e sta una bellissima lotta, io credo. A me piace tantissimo la Lazio mi sembra una squadra veramente molto pronta. Le due milanesi in questo momento hanno dei problemi, ma secondo me sul medio periodo li risolveranno, perché comunque sia sono strutturate bene. Penso anch'io. Grazie Fabrizio, grazie Franco Ordine, Pierluigi Pardo, grazie, state con noi perché dopo la borsa, via con gli ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Luigi Pardo, massiccio manipolo di ascoltatori già arrivati. No, aspetta, prima devo chiederti due cose. Ho due domande per te. Sì. Riguardano due attaccanti. Il primo, che ha vinto l'Oscar della Spiga, Milik, operato oggi, starà fuori 4-5 mesi, se ne riparla l'anno prossimo con calma e vediamo quando. E cosa cambia nel Napoli, perché mi sembra che sia un po' sottovalutato questo aspetto nel weekend. E la seconda riguarda un altro attaccante che tu hai visto in panchina commentando il derby di Torino di sabato sera, e si chiama Gonzalo Higuaín. È un caso? Allora, su Milik posso solo dire in bocca al lupo. Penso che sia il pensiero di tutti, dei tifosi del Napoli, ma non solo dei tifosi del Napoli, perché la sfiga di questo ragazzo è incredibile. Sono due infortuni traumatici alle due ginocchia, ai due crociati, veramente è incredibile, è un perverso gioco del destino. Un anno dopo, altro ginocchio. Dal punto di vista del Napoli è un problema perché Milik non è più come un anno fa, quindi meglio almeno da questo punto di vista, un titolare fisso di questa squadra. Sarri sa già come si fa, ha già trovato le contromisure, quindi meglio rispetto all'anno fa, però rimane il fatto che in una stagione così lunga, per arrivare fino a gennaio, quando dovrebbe tornare di fatto, arrivare a Napoli inglese, il Napoli è corto, quel ruolo lì è corto, non ha un attaccante con quelle caratteristiche. Qualcuno col senno di poi potrà dire era meglio tenere Pavoletti, però sono tutti bravi dopo, diciamo la verità, fatto male Milik, Pavoletti sarebbe stato in panchina e sarebbe diventato una situazione quasi imbarazzante la certo. gestire per Sarri, per cui insomma, io non me la sento francamente di prendermela con il Napoli da questo punto di vista. Per quanto riguarda Higuain fa turnover in una squadra che fa tantissimo turnover in maniera scientifica, in questo momento nelle gerarchie è dietro, non c'è discussione. E, però insomma non ci vedo niente di... Non è un caso. Higuain ha tantissimo talento, la condizione fisica non è straordinaria in questo momento e la, diciamo, il senso del gol non è ai livelli top, ma Higuain tornerà, quindi non è la classica cosa dove noi oggi diciamo questo, ma già magari da mercoledì con l'Olympiacos Higuain tornerà a segnare, tornerà a essere decisivo. Beh, come tutti gli attaccanti ha bisogno. È un inizio di stagione sotto le aspettative, sotto il par. Ok, Renzo, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Se da io volevo fargli solo una domanda, io quest'anno sono un tifoso del Napoli, nel senso mi piacerebbe che vincesse lo scudetto, ma la mia domanda è solo questa, se per caso con la Spal ha fatto il turnover Napoli, perché sinceramente un 3-2 contro la Spal, sapendo che doveva vincere tutte le partite, la Spal non è che sia questa gran squadra, pensavo che fosse più tondo come risultato. Sì, ma, non so niente, per cui... No, poi possiamo discutere anche sui due gol beccati, perché sappiamo bene come il Napoli, la caratteristica del Napoli sia quella di darle e prenderle. Sì, ma sicuramente. Sarri si sta abituando al turnover, lui non ce l'ha tantissimo come mentalità, perché era abituato fino a un paio di stagioni fa a gestire rose abbastanza corte. Adesso, grazie alla squadra che gli ha messo a disposizione la società, invece di soluzioni ne ha tante, e sta cominciando a ruotare. È chiaro che Maximovic non è esattamente uno avanti nelle gerarchie, tanto per citare uno che ha giocato a Ferrara, e in mezzo al campo ormai c'è una sorta di turnazione abbastanza scientifica tra Allan, Zielinski. Allan entrò dalla panchina, Hamsik che esce spesso nel secondo tempo, Diawara, insomma si è visto Rogue nel finale, quindi sì, non è così scientifico come Allegri, che addirittura cambia 7 giocatori da una partita all'altra, però mi sembra che Sarri abbia cominciato, e secondo me, ripeto, è cosa buona e giusta, mi sembra a dire, no? È chiaro che ci sono dei piccoli errori, sicuramente col senno di poi in Ucraina Mertens dal primo minuto poteva servire. Appunto, senno di poi, ma l'abbiamo detto anche col senno di prima. Manuel, buongiorno. Manuel da Terni, presente? Convocato? Manuel Fantoni, no. No. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, vabbè, complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti a Carlo ieri per l'intervento a Sky Sport che ho sentito. Uh-huh. Complimenti anche per Luigi, naturalmente. Che... Complimenti, sacco di complimenti. Basta complimenti. Perché esatto. Facciamo le cose veloci. Vai. Allora, niente, ho sentito Franco Ordine prima dire di Inzaghi un signor allenatore. Appunto, secondo me è quello che manca a Montella, perché non fa giocare quelli buoni. Perché Abate, Calabria ha fatto una partita sontuosa domenica scorsa, deve lasciare fuori Abate e far giocare Calabria. Dietro Zapata, c'ha Musacchio in panchina, non lo fa giocare, fa giocare Zapata, lui fa giocare quelli non buoni, e la conseguenza è il risultato di ieri. Grazie. Grazie Fabio, è così semplice la spiegazione, pardon. Forse è più profonda. Ma nel senso che per dirti, si parlava molto della difesa, no? Nelle prime partite, dopo la sconfitta contro la Lazio, si diceva: no, beh, il Milan deve assolutamente passare a 3, perché te l'ho detto anch'io. E questo perché era il modulo preferito a Bonucci, eccetera. Ieri giocare a 3 è andata malissimo. Cioè, è difficile valutare da fuori. Le cose che si sono dette dopo Lazio Milan erano: bisogna far giocare quelli più forti, tra virgolette, los buenos, come direbbero gli spagnoli, quelli che hanno più esperienza, e bisogna passare a 3. Il Milan ieri ha perso a Genova giocando a 3 dietro, giocando con Kalinic, giocando con Suso. Sull'indiscutibilità, sull'imprescindibilità di Suso, io qualche parentesi la aprirei. Cialanoglu sicuramente può giocare, però voglio dirti: a Roma c'erano Cutrone, Suso, Borini. Ieri in campo c'era soltanto Suso di questi dal primo minuto, e c'era Kalinic, giocatore che nel frattempo ha fatto bene. Quindi è difficile, ti dico la verità: è difficile, nel senso che tu non hai una diagnosi di alcuni stanno bene e bisogna farli giocare, gli altri stanno male. Una squadra che 2 volte su 6 ha completamente steccato, ma completamente, continuo a pensare però che mettere insieme tutte queste facce diverse, tutte queste facce in gran parte anche straniere, non sia una cosa semplice né breve. Allora, Piero, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Dica. Come sono medico e da 40 anni me ne intendo abbastanza bene degli infortuni, il problema severo di Milik è proprio quello che continua a rompersi con incidenti e infortuni severi. Il fatto è che non è questione di sfortuna, è questione di alimentazione, e non l'hanno ancora capito i miei carissimi colleghi, che l'importanza dell'alimentazione è fondamentale per non avere strappi, rotture, tendiniti, legamenti che saltano, muscoli che si strappano. Lo stesso problema che sta accadendo adesso a Schick è quello che è successo e sta succedendo nella Lazio. Se non badano bene all'alimentazione, quando uno introduce degli alimenti che non tollera, lo stato infiammatorio in uno che sottopone a forte stress, però, tendini, legamenti, muscoli. Mi perdoni, io non lo so, non, certamente non sono competente come lei, Pardo, credo neanche. Sull'alimentazione parliamone, Pardo è competentissimo. Beh, adesso mangia come parli, però. Mangia no, come diciamo, parli, però. Ai livelli di scientificità. No, non ci siamo. Ai quali si lavora ora, insomma. Sono monitorati. Oltretutto, insomma, non lo so, sicuramente mi fido del parere dei medici, però insomma io credo che ci sia sempre una componente umana. Lo sport in questo è meraviglioso, perché ci porta di fronte alla assurdità certe volte della vita, al caso che domina gli eventi del mondo, e nello sport lo vedi in maniera molto più seria, perché chiaramente l'infortunio di un giocatore può pesare sull'intera stagione di una squadra. Questo, se evidente, tu ti fai male un dito andando a lavorare, alla peggio c'hai per 3 ore il dito che ti fa male e torni a casa. Sì. E cioè nello sport è tutto diventa espressionista, tutto diventa dilatato, tutto diventa drammatizzato. No, ma poi possiamo anche discutere magari anche banalmente del fatto che magari il giocatore, ma questo è sempre una diagnosi a spanne, spannometrica, quindi prendetela con le molle, magari ha forzato molto sì, la non gamba sappiamo, non lo possiamo sapere. Ieri si è spaccato di nuovo crociato, io propendo per l'ipotesi sfiga totale. Negli infortuni non traumatici, negli infortuni di natura muscolare esiste una logica, una scientificità. È chiaro che maggiore, una squadra che ha 50 infortuni muscolari, certo, una che c'era 5, occhio e croce viene a dire che il preparatore di quella che c'era 5 ha lavorato meglio di quella che c'era 50. Ma sull'aspetto traumatico rientriamo, chiaro, nell'ambito della stelle, della casualità della sfiga nera. Antonio, buongiorno. Buongiorno, Napoli. E grazie per la convocazione. Allora, dica. Mio padre prima diceva che lui, diciamo, non ha nulla da che dire quando la società del Napoli, per quello che è accaduto di Milik, eccetera, eccetera. Però noi, una squadra come Napoli, che ambisce per le prime posizioni, non dico lo scudetto, no, non si può ridurre dopo l'esperienza già subita l'anno scorso con l'infortunio di Milik. Non ci possiamo ridurre che si fa male Milik, che non abbiamo, cioè dobbiamo inventarci un altro centravanti dopo Mertens. Io penso che una squadra così che ambisce per le prime posizioni non può ridursi a questo, diciamo, senza un altro attaccante, dopo aver venduto Paoletti pure, eccetera eccetera. Io penso che qualcosa sul mercato si sarebbe dovuto fare. Antonio, però vale il discorso che ha fatto Pardo prima, potrebbe essere trattenuto Paoletti, poi stavamo a marciare in panchina. Il discorso dell'ascoltatore è chiaro, che noi oggi siamo tutti toccati perché è successa questa cosa qui, e quindi è ovvio che, insomma, ha ragione l'ascoltatore, dice, ma una prima punta vera non c'è, la profondità della rosa del Napoli è ovunque tranne che davanti, cioè a centrocampo ha risorse tranquille per fare turnazione, in difesa pure, davanti no. È stata fatta una scelta nelle ultime ore di mercato, penso d'accordo con l'allenatore, penso, perché non sarebbe assurdo che non sia stata fatta così. Sappiamo che lì davanti le gerarchie nel Napoli sono un pochino più rigide, nel senso che sì, mentre Sarri fa la rotazione, Allan, Diawara, Jorginho, Zielinski, li ruota tutti, e anche dietro ruota abbastanza, tanto da dare lì davanti giocano quei tre, poi rischiava veramente di avere dei giocatori che non giocavano mai. Esatto, quindi... poi devi anche gestirli. Oggi ha ragione l'ascoltatore, che ti devo dire? Ma siamo sempre al senno di poi di cui sono piene le fosse. Sì, legge di Marfi. Piero, senti, traffico, parliamo con Luca Dalodi, poi vi saluto. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, prima di salutare Pardo, Luca Dalodi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Due considerazioni velocissime. Prego. Volevo chiedere una cosa su. Detto che secondo me Bonucci è molto forte, è molto bravo più probabilmente a impostare la difesa e a guidarla piuttosto che nell'uno contro uno lo trovo invece molto scarso. Non è che probabilmente si è sottovalutati un attimino che la che lui aveva di fianco uno forte e che Chiellini lo trovo molto forte. Secondo me è stato un po' sottovalutato questo. Mm-hmm. E si è montato molto negli ultimi 2-3 anni Bonucci, mentre Chiellini no. Chiellini è sempre stato abbastanza tenuto abbastanza ridimensionato. Un'altra cosa che volevo chiedere, perché bisogna sempre cercare di parallelare, come si dice, di dare paragoni col passato, di fare paragoni con altri giocatori riguardo Dybala, perché deve essere per forza paragonato a Messi, questo, non può essere semplicemente Luca, un giocatore normale. No, ma Luca, questo è un gioco giornalistico, dai, l'abbiamo detto mille volte. Diciamo da settimane, da prima di Barcellona Juve, è un gioco giornalistico, nel senso che domani c'è la partita Real Madrid-Napoli e uno fa il paragone tra Cristiano Ronaldo e Mertens, anche se è un paragone che non esiste da un punto di vista tecnico. C'è, non lo so, Roma-Bayern, uno fa Lewandowski e Dzeko, cioè è un modo di mettere insieme i giocatori migliori delle due squadre. Poi c'è anche invece chi si è lanciato, perché poi ci sono anche dei colleghi che legittimamente si sono lanciati. Io credo che la dimensione di Dybala nel futuro sarà di altissimo livello. Non penso che vediamo sia dove, tanto vediamo, Messi, ma vediamo semplicemente dove. Perché Messi in questa epoca qui è irraggiungibile. No, e su Bonucci sono d'accordo, nel senso che lì c'era una forza di reparto, mi verrebbe a dire la forza della fase difensiva della Juve. Bravo, era una squadra, aveva una squadra davanti. Quindi una manca, anche Barzagli, tanto Chiellini, anche Barzagli, anche quelli che giocavano davanti alla difesa, anche come giocava la Juventus. Comunque e quindi Bonucci migliorerà, non è questo. Bonucci sì, adesso è un po' esposto ai venti, ma questo, esatto, anche questo è normale. Pier, ti saluto, grazie, ti vedo stasera Tiki Taka. 22:30 perfect, 23:30 naturalmente, sì, 22:30 è roba da signorine. Allora voglio chiudere con Aragon. Naturalmente è molto di più la soddisfazione di esserci stato e comunque di aver guidato bene, essere partito in prima fila e poi aver fatto una gara al massimo dall'inizio a quasi alla fine. Una settimana fa erano più le possibilità di guardare la casa, ecco. Peccato perché abbiamo perso un bel po' di punti, però per quello che avevo ho fatto il massimo, sono partito, mi sono davanti, ho cercato di perdere il meno possibile, ma mano a mano che andavo avanti ho dovuto incominciare a spingere troppo presto con la gomma e l'ho finita. Ho portato a casa il massimo che potevamo, ma non è stato un granché. Allora Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Valentino Rossi, il miracolato, anche se ieri, vabbè, gara straordinaria, si è speso un fiume di parole, di inchiostro su questo infortunio. Non è la prima volta che vediamo qualcosa del genere, soprattutto nel mondo del motomondiale. Per quanto riguarda invece il grande sconfitto, l'abbiamo sentito per secondo, Dovizioso, che ieri, secondo me, ha buttato per aria il mondiale, le possibilità di mondiale, o quantomeno se ne è bruciato una buona parte. Sì, purtroppo è tornato il Dovizioso che conoscevamo. È vero che ha avuto la moto fuori assetto, ha spinto dall'inizio e ha finito la gomma prima, però vedere così un Dovizioso rinunciatario alla bagarre, a difendere la posizione o a provarci e quindi metterci del proprio o il cuore oltre l'ostacolo, come invece fanno diversi altri, fa male, perché ci eravamo abituati a un Dovizioso invece che aveva risolto quel problema. Lo avevamo detto, era riconoscibile, più grintoso, più aggressivo, non la mandava a dire, e invece è tornato il Dovizioso conservatore. Questo è un problema, perché per vincere un mondiale oggi, soprattutto contro un market scatenato, bisogna metterci di più, bisogna andare oltre ai problemi. Dovi, se ha la moto a punto è tutto a posto, ok, però se c'è un piccolo problema, no. Hanno pagato tutti lo scotto del venerdì con l'acqua, non hanno trovato la mano, non hanno fatto l'assetto, ma anche Marquez litigava, ha rischiato, l'abbiamo visto, poteva accontentarsi, era comunque davanti a Dovizioso, e invece ha allungato, ha sorpassato Lorenzo e ha fatto vedere l'ennesima volta chi è il più veloce e il più forte. Diciamo che non devi arrenderti, Roby, cioè no. Non hai la moto a posto, però non puoi permetterti di lasciargli 16 punti. No, non si può, perché vuol dire addio al mondiale. È vero che ci sono ancora 4 gare, 100 punti in palio, però 16 distanze di lunghezza adesso sono davvero tante, se pensiamo che sono partiti a pari merito. Era un momento pazzesco pazzesco quello della Ducati fino all'altro ieri, cioè non è mai stata così competitiva e così davanti, doveva secondo me forse far vedere di più, ma io lo dico soprattutto in un frangente, quando c'è stato il confronto con Valentino, mi è sembrato un po' troppo rinunciatario e non vorrei che lì si innescasse anche un problema psicologico, perché sai che avete visto anche con Pedrosa cosa c'è stato. Certo, la mente dei piloti è cosa sofisticata, come quella degli sprinter. Lo sappiamo bene. Altra notizia è Lorenzo, che vedrai ci arriverà prima o poi, perché è stato davanti per tanti giri e adesso in Giappone, pista favorevole a Ducati, potrebbe davvero fare colpaccio. Io oso, rischio e dico che prima della fine della stagione una vittoria di Lorenzo con la Ducati potrebbe anche starci. No, però dovrebbe fare anche gioco di squadra, no? Cioè, in linea di massima dovresti tirare la volata a Dovizioso, che è lì per il mondiale. Sì, però a questo punto è talmente forte il desiderio di vincere con quella moto per Lorenzo, per mettere a tacere tutti, perché è stato ampiamente criticato, che non so tra questa soddisfazione e quella di aiutare Dovizioso, se ci fosse, cioè se il suo aiuto dovesse essere davvero importante a tal punto da consegnare il mondiale, allora sì, ma se si tratta di una posizione e inizia a essere lontano a Dovi, poco farebbe, e allora prevale il desiderio, l'orgoglio, la voglia di questa vittoria che mette a tacere tutti. Non dimentichiamoci, Carlo, in ultimo l'Aprilia, perché si è fatta vedere, la moto è molto competitiva, di telaio a posto, in centro curva è davvero molto forte, le manca forse un zic ancora di motore, ma sta risalendo. Ottima prova di Espargaró, ed è un marchio italiano, non bisogna dimenticarsi di lei. Certo, certo. Una battuta su Vale. Vale, che dire, è chiaro che è strepitoso, però noi l'abbiamo detto e lui stesso poi lo ha ammesso, dà più fastidio stare a casa a vedere gli altri, fa più male quello. Un pilota vive quando corre. Esatto, vive, e lui è ancora un pilota, Roberto. E lui è ancora un pilota, e quindi stare a casa è la cosa peggiore, è una ragione di vita correre, e quindi si fa di tutto per farlo. Non stupiamoci, il passato ci ha regalato degli esempi ancora più devastanti, perché Lorenzo con la clavicola, Grammini 92 con la gamba, e davvero questi sono i piloti visti da fuori, l'abbiamo già detto, sembrano dei pazzi, ma in realtà non lo sono, perché se non fossero così non sarebbero piloti, non sarebbero più piloti. Valentino Rossi lo è ancora, la chiosa può essere questa. Grazie Roberto Ungaro, ci sentiamo venerdì al più tardi. Ciao Roby. Ciao, saluto a tutti. Ciao, io ringrazio anche Giorgio Duca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Domani ci sentiamo da Bologna, Cersaie, saremo lì, veniteci a trovare. Ciao. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!